Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fumavo, mi rigiravo la sigaretta tra le dita, incerto su quale fosse la mia presa, tra indice medio o tra pollice e indice, più tamarra ma più intrigante, un po' da capobanda. E poi come buttare fuori il fumo, i cerchietti e i rigurgiti dal naso. Accavallavo le gambe e le allungavo, e nel frattempo mi guardavo la sigaretta. Sono Ugo, ho 30 anni, lavoro come ingegnere e vivo a Lucca. Era quasi incerto Ugo se dire e vivo a Lucca, forse non voleva dare le generalità. Un disclaimer per la puntata di oggi: la puntata di oggi non è per persone eccessivamente romantiche. Se amate l'amore e se amate raccontare il vostro amore, se dite un sacco di volte ti amo alla persona che amate, ho usato il verbo amare e amarsi negli ultimi 20 secondi credo 5 volte, già record del mondo. Se quindi siete delle persone con un'indole da inguaribili romantici, quella di oggi non è la puntata per voi. Il motto di oggi, o meglio l'intro del tema di oggi, è: sono così poco romantico che. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma c'è anche un profilo Facebook del programma che purtroppo ormai ha acquisito questa pagina del diario, per cui non si capisce più niente di quello che si scrive, però è sempre quello, è Matteo Caccia, io sono qui. Vi faccio degli esempi. Emanuele: sono così poco romantico che non ho mai regalato un fiore ad una donna. Viola: sono così poco romantica che, Viola per me oggi proprio vince a mani basse. Sono così poco romantica che, camminando verso l'altare, ho detto a mio padre: io con questo mica ci sto per tutta la vita. Giuro, e oggi finalmente firmiamo il divorzio. In bocca al lupo, Viola, direi che oggi è proprio una giornata veramente per gente che non ha voglia di avere le carie ai denti, tant'è il miele che cola di solito. Simone: sono così poco romantico che, per capire ciò di cui parlerai oggi e finire la tua frase, ho cercato sul vocabolario la parola romantico. E ancora, Laura: sono così poco romantica che alla frase ti amo ho risposto ok. Che è veramente un modo pavido, e guarda, è forse più pavido di anch'io, perché anch'io si mette in pace, no? Anch'io dice, boh, sono a posto, cioè ho detto il mio, no? Ok no, invece ok è tipo, ehi, non so cosa voglia dire ok, probabilmente sei stata presa a schiaffi quando hai risposto ok. Però anch'io è quella roba che, cioè, che quando ti lasci cosa dici? A me non te l'avevo detto, cioè io te l'avevo detto anch'io. Dai, no? Non ha senso nemmeno così. 349-238-6666. Orietta: il mio ex aggiungerebbe. Ah, lei parla per il suo ex. Quindi qua già siamo nel mondo delle super carie ai denti. Sono così poco romantico che, mentre la mia fidanzata piangeva come una fontana perché le avevo appena detto che stavo meglio con un'altra, mi sono addormentato. Forse lui se la gioca con Viola. Siamo lì. E poi Manuela: sono stata fidanzata per quasi 3 anni con un carabiniere. Era una relazione a distanza, 800 chilometri. Ci si vedeva durante le sue licenze e nelle vacanze estive. In una delle nostre interminabili telefonate, lui sfoderò una dolcezza incredibile. Mi sussurrò: io voglio fare un bambino insieme a te. Credo che questa dovrebbe essere la cosa più bella che una donna possa sentirsi dire. Boh, ma anche no, Manuela, magari ci sono donne a cui piacciono altre cose. Beh, io sono così poco romantica che, gli ho risposto, se vuoi possiamo prendere un cagnolino. 349-238-6666. Tutto però nasce dalla storia di Ugo, che era così poco romantico che non aveva, prima di questo racconto, ancora detto ti amo. Il giorno che cominciai a fumare avevo circa 20 anni e pensai che stavo facendo una cazzata, ma in quel momento sentivo che era necessaria. Pensai subito che dovevo smettere, ma con calma. Potevo metterci una vita a smettere di fumare. Quel giorno stavo passeggiando per casa da circa un paio d'ore, senza uno scopo. Avevo un esame a breve, ma non riuscivo a concentrarmi. Tutti i pensieri erano per Silvia. Forse era la prima volta che occupava tanto spazio nella mia vita. E lei manco lo sapeva. Se n'era andata così, vigliacca. Mi aveva detto quelle boiate tipo: prendiamoci una pausa, che poi tanto sai come va a finire. Io quel giorno mi convinsi che c'era qualcosa che non avevo fatto. Sì, quel giorno mi convinsi che era colpa mia. Presi in mano le lettere che mi aveva scritto

piangeva come una vite tagliata. Ecco, la questione era che io non ero riuscito a volerle abbastanza bene. Ero felice, mi sentivo un alfiere di qualcosa che avevo scoperto anch'io, perché mi ero liberato forse di qualcosa, di parole che erano da troppo tempo dentro di me senza essere state mai dette. Davanti al cinema c'erano solo 3 persone, uno di loro lo conoscevo di vista. Mi guardò e mi disse: proprio non te lo volevi perdere l'ultimo metro in lingua originale, eh? Io ero completamente fradicio. Posai la bici, mi guardai. Ero ridicolo. E fu in quel momento che gli chiesi: hai una sigaretta? Lui me la porse con fatica, io non sapevo ancora quanto sia scocciante dar via le sigarette. Ringraziai e mi misi sullo scalino di un portone, nascosto da una macchina, ad aspettare. Fumavo, me la rigiravo tra le dita, incerto su quale presa fosse la mia, indice o medio o pollice indice, più intrigante da capobanda. E poi come buttare fuori il fumo, i cerchietti rigurgiti dal naso. Accavallavo le gambe e le allungavo, e nel frattempo mi guardavo la sigaretta. Esperimenti che poco a poco mi hanno conferito un personale modo di fumare. Ognuno fuma a modo suo. Esperimenti che avrei fatto e rifatto, finora. Atteggiamenti imprescindibili, modi di fare e di gesticolare di cui non possiamo fare a meno. Quella fu la peggiore sigaretta della mia vita. A metà la lasciai andare a terra. Era arrivata Silvia. Non era in bici e non era neanche a piedi. Era piuttosto a cavallo. A cavallo di quel Cesare che la teneva sulla schiena. E correva, ed erano infantili, felici, ed erano belli, sfacciatamente belli. Silvia mi vide solo quando mi sfrecciò davanti, e non posso dimenticare il modo in cui cambiò espressione. Scese da cavallo e mi aspettò lì, a pochi metri. Io ci andai, e anche se mi tremava la voce, glielo dissi lo stesso, quello che non l'avevo mai detto. Non odiare l'amore, mi rispose lei. Il cavallo mi guardava da dietro. Mesi dopo seppi che era veramente dispiaciuta. Girai i tacchi e presi la bici. Pensai che da qualche parte avrei trovato da scroccare un'altra sigaretta. Si chiama questa canzone, il gruppo si chiama We Are Augustines. Trovate tutti i brani che mandiamo in onda, se volete sapere i titoli e chi li canta, sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, ma trovate comunque anche i link sul profilo Facebook del programma, dove Tiziano li carica appena prima di andare in onda. 349-238-6666. Sono così poco romantico che, per dimostrare affetto alla mia ragazza, le metto un dito nel naso. Michele. Sono così poco romantico che una volta ho riciclato i baci perugina dell'anno prima con un'altra ragazza. Sono così poco romantico che mi sono perso. Dov'è? Eccolo qua. Sono così poco romantico che in 47 anni di vita e 15 di convivenza non ho mai detto ti amo a qualcuno. Eppure io sono qui, Stefano, in bocca al lupo. E invece c'è qualcuno che era così poco romantico che fino a quando ha detto non ha detto ti amo, tutto andava bene. Nel momento in cui gliel'ha detto, tutto è crollato. Pronto, Ugo? Sì, pronto. Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, cos'erano 10 anni fa, quindi? Sì, quasi 10 anni fa, sì. L'hai più rivista poi, lei? Sì, lo rivedo, sta sempre con questo cavallo. Sta ancora con Cesare? Sì, beh, sì. Allora, in realtà i nomi non sono... Vabbè, sì, lo immagino. Non lo so, non mi piaceva. Hai fatto benissimo. Però chiamiamolo Cesare, insomma. Sì. Sta ancora con lui. Ma perché lui è uno di social forum e quelle cose lì? Sì, no, lui è un ricercatore universitario e poi è molto prodigo, insomma, in questo campo. Tu un po' meno, mi pare di capire, Ugo, pure. No, anch'io. Ah, anche tu continui. Diciamo che, no, dopo la laurea c'è sempre la stessa tensione, però praticamente il lavoro, insomma, è un po' più difficile trovare il tempo. Cosa fai adesso, Ugo? Sei ingegnere, giusto? Sì, sono ingegnere, lavoro a Livorno in un'azienda che realizza parchi eolici, nelle rinnovabili, insomma. Ah, sei la seconda persona nel tipo nel giro di 10 giorni che lavora per una società che cioè, realizza le pale, no? Giusto? Sì, sì, esatto, sì. E voi le fate in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutta Europa, dove? Sì, in Italia, in Italia. E dove le avete fatte in questo? Dimmi l'ultima che avete fatto. L'ultima in Liguria, provincia di Savona. Senti, però tu sei di Lucca, giusto? Sì, sono di Lucca, esatto, sì, sì. Vivo ancora a Lucca. Ah, fai avanti e indietro. Faccio avanti e indietro, esatto. Senti, invece, Ugo, uno straccio di fidanzata, l'abbiamo trovato da allora oppure? Sì, sì, sì, sì, sì. No, convivo già da un po' di tempo, insomma, una storia, una compagna. Ma quindi, tutto bene. Guarda, mi rincuora questa tua frase. Io, dopo aver letto il tuo racconto, ti immaginavo triste, solitario e finale in qualche angolo di Lucca. Devo dire che è durata un po' di tempo, è durata un paio di mesi, poi mi sono liberato. È durato un paio di mesi quella sensazione, dici? Situazione, sì, no, perché in effetti fu un po', insomma, un colpo, ecco. Ma e hai smesso di fumare oppure no? No, no. Cioè, quindi hai cominciato quel giorno? Sì, non ho esattamente cominciato quel giorno ho cominciato a capire che ne facevo male a meno, ecco. Senti, invece sei diventato un po' più romantico o lo sei rimasto? Cioè, sei rimasto come prima di quel giorno lì? Non lo so, credo che questa domanda forse non dovrebbe essere rivolta a me. Penso di sì, ecco, ci faccio un po' più attenzione. Però, insomma, le dici ogni tanto le due paroline? Sì, le paroline le dico, sì. Sì, guarda, scusami Ugo, ma c'hai una voglia di dirle queste paroline che mi sembra proprio che te le debbano cavare? No, assolutamente. Dove la porti questo fine settimana? Questo fine settimana stiamo a casa fuori al sole e stiamo in giardino lavorando. Fuori. Guarda, sei magnifico perché non hai in mente niente per questo fine settimana, però hai deciso che ci deve essere il sole e che state lì a godervela quando lei magari... No, invece no, ti sbagli, ho guardato anche il meteo, speriamo che ci sia il sole, altrimenti facciamo Ma portala al Romito. Andremo al cinema, anche al Romito. Sì, anche al Romito. Sì. Al cinema a vedere cosa? Non lo so. Ti sto mettendo in difficoltà, ti sto mettendo in grande difficoltà, Ugo, lo so, ma puoi andare oltre, un bel film de sé, facciamo un bel film de sé. Sì, apprezza molto. Lei apprezza, tutte così le prendi? Che ti devo dire, cerco quello che non ho, forse. Giusto, per quello che dicevi prima, no? Io borghese, cosa vuol dire per te essere borghese? Poi ti lascio andare, scusa, però è che mi diverte molto perché rispondi a spizzichi e bocconi e quindi mi viene a farti un sacco di domande. Cosa intendi essere borghese nel 2012? Non lo so, essere conformista, avere gusti che appunto più o meno rispecchiano il ceto medio italiano e quindi... E tu ti senti borghese quindi? Sì, io la domenica per esempio sto in giardino quando c'è bel tempo, come dicevo, no? sei fantastico. Ascolti tutta Radio 24, Ugo? Come? Ascolti tutta Radio 24 o solo dei pezzi? Sì, no, sono un ascoltatore, ascolto la mattina, poi ascolto la Zanzara, mi piace Mellog, mi piace... Va bene, la tua fidanzata ascolta la Zanzara? Come? La tua fidanzata ascolta la Zanzara? No, la risposta è ovvia, la odia. Ti ringrazio Ugo, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Sono così poco romantico che Giulietta Romeo è la mia pizzeria preferita. Voi siete qui. Ugo, l'ingegnere il poco romantico di oggi, ci ha mandato la sua foto, come fanno tutti, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Ha la barba corta e ben tenuta, ha i baffi folti nella foto, è leggermente stempiato con i capelli corti e ha la faccia decisamente poco romantica. 349-238-6666, ma abbiamo creato anche un hashtag che è su Twitter, per chi frequentasse quella roba lì. L'hashtag è Voi siete qui. Qualcuno ci ha aggiunto anche un hashtag che è Sono così poco romantica che Alessandra, da piccola correggevo l'ortografia nelle letterine d'amore che mi mandavano. Poi ancora Daniela, sono così poco romantica che se mi mandi un SMS sdolcinato lungo più di 140 caratteri ti rispondo quindi. Doriana, Ah no, Doriana chiede se poi, dopo che l'ha detto ti amo, lei lo ha lasciato. Sì, no, non, proprio non l'ha, Doriana, non l'ha nemmeno, non credo non si fossero di fatto quasi nemmeno, sì, avevano avuto la storia, ma sì, non gliel'ha nemmeno detto che lo lasciava. E poi ancora, aspetta, è arrivata una mail a voi siete qui, @radio24.it, che sembra finta, e proprio perché sembra finta è sicuramente vera. Mia moglie è così poco romantica che al ritorno da un mio viaggio di lavoro, dopo una settimana, entro in casa e senza parlare l'abbraccio, chiudo gli occhi e lei... un rutto. Riapro gli occhi impietrito e mortificato e vedo il bottiglione di Coca-Cola. Sono così poco romantico che a 2 mesi dal matrimonio ho detto no, me ne vado a Los Angeles per un anno. Se non sei romantico, fai carriera come me, Andrea da Verona. Questo sembra uno di quei, di quegli assurdi, di quelle boiate che scrivono tipo su Corriere.it, no? Ogni tanto fanno i sondaggi e ti esce scritto se sei romantico non fai carriera, che sono quelle ricerche che fanno tipo tra me, Bonini, Margherita Hina e Paolino Corleoni qui in redazione, e poi ci fanno un articoletto. Io sono così poco romantico perché alla prima cena faccio pagare il conto a lei. No, Giulio, non è che sei poco romantico, è che sei semplicemente un taccagno. Sono così poco romantico al punto che quando non sono innamorato ripenso a quando lo sono, mi faccio schifo. No, vabbè, ma questa è semplicemente scarsa fiducia in se stessi. Abbi pazienza, succederà di nuovo. 349-238-6666, oppure anche voi siete qui su Twitter e su Facebook. Abbiamo scelto... prima, poco prima di andare in onda proprio, un brano di un libro di uno scrittore italiano che si chiama Ugo Cornia. Il libro si chiama Quasi Amore, lo trovate per Sellerio, è un libro di una decina d'anni fa. Ed è un pezzo, abbiamo scelto questo pezzo proprio perché parla del momento in cui ci si innamora, parla anche un po' velatamente di sesso. E lo fa in un modo che può essere veramente a metà tra il super romantico e invece il super gelido e analitico. È sempre stata una cosa stranissima per me, ho pensato in quei giorni. Come mai a un certo punto c'è una persona che in qualche modo ti altera il ritmo circolatorio? I suoi movimenti accelerano e rallentano la velocità del tuo sangue, come il traffico e i terremoti. E poi questo pezzo di mondo si diffonde negli strati oscuri del tuo cervello e si mette a spostare i blocchi dei tuoi pensieri. Chissà che casino mi è successo dentro la testa, coi neuroni che fanno le loro tracce. Nuovi tracciamenti, nuova vita, ho pensato. Le cosiddette nuvole chimiche dei nostri umori. Me lo prendi dentro e ti metti a pulsare. A mollare, stringere, e mollare, e stringere, e vien fuori del tracciamento neuronico nuovo. Vita nuova. Nuove tracce, nuove giornate. E alla fine diventiamo dei sacchi pieni di pezzi di mondo buttati dentro a caso, a seconda della fortuna. Se sei sfortunato e non fai gli incontri giusti, diventi un sacco pieno di frattaglia morta. Se sei fortunato, diventi un sacco pieno di belle cose. L'abito in pelle affascinante, pur senza averne le pretese. Arrivata la primavera e finalmente la redazione di Voi Siete Qui si muove. Lunedì siamo a Vinitaly insieme a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, che forse non rimane qui, tant'è, Margherita Hina anche. E poi delle sorprese per maggio, probabilmente oltre al Salone del Libro, non ricordo ancora la data, qualcosa di anche di più corposo. L'11 maggio mi dicono, venerdì 11 maggio, ma anche sabato 12 saremo al Salone del Libro. Ma vi diremo poi meglio tutto il resto. Sono così poco romantico che le ho detto prenditi l'anello che mi è caduto sulla soglia, ma anche sono così poco romantico che alla frase ti amo ho risposto grazie. Grazie ancora a tutti quelli che hanno reso possibile questo programma oggi, ieri e domani. Grazie a Ugo, la storia di oggi era la sua, era quella di Ugo e parlava di romanticismo. La storia di domani è la storia di Enzo e parla di come il lavoro forgia chi siamo. La signora per l'ennesima volta si espresse. Questo marrone è troppo chiaro, ma questo è troppo scuro. Diceva sempre la stessa cosa. Non le andava mai bene niente. E anche se le differenze erano minime, una variante era troppo e l'altra era troppo poco. in silenzio fino a quel momento, mio padre esplose come una bomba. Siora, Leac Pias Calmaron, Clan Mes, Aidumaron.